So dear to why. He remains a prison sign me. Everything is as they need. Fake images do not remind me of my family and my roof. He remains a prison sign me. Everything is as they need. No lonely body on the street, fly in the sky millions of leaves. Bianco sporco resta dentro, come sul treno per Yuma. Speranza ora di fuga nessuna, assuefatti dagli odori della nostra città. Viviamo dentro questa porca realtà. Siamo ombre cinesi che si allontanano, passanti su una crisi di nervi che si preparano al nuovo scontro. Dentro ad ogni sguardo vedo un nuovo mondo, dietro ad ogni ombra vedo un nuovo sogno. Come un film in bianco e nero, rimango come tale, vero? Zero complicazioni e mille più soluzioni. Difendiamo i nostri cuori da un milione di nuovi e fottuti errori. He remains a prison sign me. Everything is as they need. Fake images do not remind me of my family and my world. He remains a prison sign me. Everything is as they need. No lonely body on the street. Fly in the sky millions of feet. Rimane impresso dentro me, mentre tutto è polvere. Vedo finte immagini che ricorda le mie origini. Strade che si sporcano. Finte ombre come finte immagini, finte persone dalle finte origini. Chiusi dentro le sob, tutti fermi al loro stop. Contraffatti come dice Caos con il Photoshop. Perché nessuno crede più in questo mondo chiamato hip hop. He remains a prison sign me. Everything is as they need. Fake images that now remind me of my family and my roof. He remains a prison sign me. Everything is as they need. No lonely body on the street. Fly in the sky millions of feet. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa. Tutti qui rincorrono una verità preziosa. Rimangono chiusi dentro questa vita sempre più costosa. Oro nero che cola, clandestini su una barca in coda come nel colore viola. Sai che io tento di sfuggire, di ripartire, lasciami andare. È ora di ricominciare a camminare. Ritorno sui miei passi con questi bassi grassi. Sfido la sorte che mi è nemica. Porto braccetto la morte perché è mia amica. Bianco sempre più sporco per tutto il marcio che attorno. Ora se vuoi cerca pure il tuo dio risorto. Fucking dirty why. Fottiti. He remains a prison sign me. Everything is as they need. Fake images do not remind me of my family and my world. He remains a prison sign me. Everything is as they need. No lonely body on the street. Fly in the sky millions of feet. So dear to why. Fucking dear to why. So dear to why. Fucking dear to why. Why? Fucking dirty why? Fucking dirty why?